Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Paola De Angelis, conduttrice di programmi Radio Rai, e giornalista e scrittrice e autrice della prefazione del libro La vendetta delle punk di Vivian Goldman, che verrà presentato questo giovedì 2 dicembre presso Galleria 16. Ciao Paola, benvenuta a Radio Città Fujiko. Ciao Adele, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Vorrei iniziare questa intervista innanzitutto chiedendoti, chiaramente non anticipazioni sul libro, perché inviteremo tutte e tutti poi alla lettura ed esserci alla presentazione di questo giovedì a Galleria 16, però so che tu hai curato la prefazione e quindi ti chiedo come si approccia la prefazione di un libro intitolato La vendetta delle punk, il cui sottotitolo è Una storia della musica femminista, quindi ha una visione ben chiara e un obiettivo abbastanza situato rispetto poi a il contesto musicale della musica punk. Allora, la prefazione si approccia cercando di condensare in queste pagine, che non sono neanche poche, anni di letture sull'argomento. Io ho letto il libro di Vivian Goldman quando è uscito in versione originale, quindi un paio di anni fa, e l'ho intercettato perché comunque conoscevo già lei come musicista e come scrittrice, ma nel frattempo, da quando ho letto questo libro e la intervistai per il manifesto all'epoca, si sono aggiunte tante altre letture e anche visioni di documentari di cui parlo nella introduzione. Per esempio l'autobiografia di Kathy Valentine delle Go-Go's, l'autobiografia di Viv Albertine delle Blitz, la visione di vari documentari come per esempio proprio quello delle Go-Go's. E poi tutte queste cose ovviamente risuonavano con quello che scriveva Vivian Goldman in questo libro, e quindi poi si è trattato di, dopo tanto rimuginamento, di condensarle e di cercare di dargli una forma e anche un po' uno svolgimento, cosa che spero di essere riuscita a fare in una specie di narrazione che parte dal punk e arriva fino ai giorni nostri con delle musiciste che sono hip hop e che, anche secondo Vivian Goldman, incarnano maggiormente lo spirito del punk e della protesta nell'epoca che stiamo vivendo. Come si concilia la musica punk e il femminismo? È un matrimonio perfetto, per quanto burrascoso, nel senso che l'etica del punk, che è l'etica del fai da te, del impara mentre fai, ovviamente è perfetta per le persone che hanno pochi mezzi a disposizione, quindi vale per gli uomini, vale ancora di più per le ragazze, che hanno, per le donne che hanno sempre avuto meno accesso alla musica. Sembra assurdo dirlo oggi, ma ancora negli anni 70 un gruppo interamente femminile che scriveva da sé le canzoni era una cosa veramente assurda, era una cosa considerata molto strana. Quindi questo fatto di non dover possedere una tecnica, non dover essere delle virtuose dello strumento, ma di imparare strada facendo, come facevano esattamente i ragazzi. Paul Simonon non sapeva suonare il basso quando stava già nei Clash, quindi va molto bene per le donne. Non solo, il punk è una musica di rottura, di contestazione, e Dio solo sa se le donne non avessero sempre avuto a che fare con la rabbia, con le discriminazioni, con dei ruoli ben stabiliti dalla società, che a un certo punto diventavano veramente delle catene da cui liberarsi. Quindi per la forma musicale e anche per i contenuti, il punk è l'espressione perfetta di tutte le tematiche femminili, di tutta la rabbia soprattutto femminile repressa per tantissimi anni. Il titolo La vendetta delle punk fa riferimento poi all'interno del libro a un sacco di personaggi, un sacco di protagoniste all'interno dello scenario musicale. Ti chiedo se hai voglia di citare qualche protagonista. Chi sono queste punk? Le punk sono tantissime, non sono soltanto quelle che noi ovviamente conosciamo come punk, per esempio le Slits o Polystyrene, perché lei, Vivian Goldman, considera punk per l'attitudine, per la storia personale, anche Grace Jones, per esempio. Innanzitutto, Adele, lasciami dire che la vendetta del titolo, perché viviamo in Italia dove già la parola femminismo è considerata una parolaccia, quindi è sentita come una minaccia, figuriamoci se uno parla di vendetta delle punk. La vendetta del titolo è soltanto una rivendicazione di spazi, una forma di richiesta molto evidente, molto esplicita, di avere, di far sentire la propria voce. I personaggi, le musiciste che ci sono in questo libro sono una galleria molto varia, che va dall'Occidente all'estremo Oriente. Quindi anche per questo può essere interessante leggerlo, perché si scoprono le Pradesh, che sono un gruppo di ragazze del Kashmir, per esempio. Ci sono gruppi indonesiani, c'è una musicista cinese che, pur essendo punk, incarna degli ideali che sono per noi estremamente conservatori. Personalmente io sono rimasta molto affascinata dalla storia delle Las Vultures, un gruppo basco degli anni 80, 70, 80, perché ho un interesse particolare per i Paesi Baschi, e anche perché penso che la Spagna in qualche modo somiglia all'Italia, hanno delle storie parallele questi due paesi, anche se poi si differenziano per tante cose. E l'effetto dirompente delle Las Vultures sulla società spagnola è veramente molto divertente, cioè, è una vicenda che farebbe molto scandalo anche oggi, e quindi vi invito magari a leggerla, a scoprirla tra le pagine del libro. Paola, io ti ringrazio per questa chiacchierata, e chiaramente invito tutte e tutti a leggere poi questo libro di Vivian Goldman, La vendetta delle punk, che ripeto verrà presentato questo giovedì 2 dicembre presso Galleria 16. Quindi ancora grazie e speriamo di risentirci presto. Grazie a te, Adele, e un saluto a tutti gli ascoltatori. A presto.